qualche secondo alle 7 del mattino. Eccoci qui negli studi di Rock FM. Vi parla l'Ariele, pronto ad augurarvi una buona giornata anche quest'oggi, martedì 25 di settembre. Lampione crepuscolare ancora acceso. Mister Spadino già ai tasti freddi del mixer di Rock FM. E volete sapere la notizia bomba di quest'oggi? L'omino che fa jogging è già lì che corre. Fantastico. Questa si chiama dedizione alla corsa. Bravo. Secondo me, anche se lui non sta ascoltando Rock FM, è un nostro radioascoltatore nello spirito. E voi invece là fuori, tenetevi pronti perché andiamo a cominciare. Puntata numero 17. Ai ai ai ai ai. Di martedì, tra l'altro, che se non ricordo male, pane, burro e rock and roll. Potrebbe essere il giorno della terzina, eh? La tua colazione rock. È giorno di lotto oggi? Pane, burro e rock and roll. Chiedo a Carlo, il nostro tabaccaio di riferimento, ma credo di sì, eh? Benvenuti! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. La squadra di pane, burro e rock and roll si completa solo con Roberto Fricantoni, voce degli Schiantos. Un po' preoccupato perché non sta tornando indietro l'omino che fa jogging, che presenzierà anche stamane. È meglio se non glielo diciamo a lui che è la puntata 17, Spadino, perché ultimamente gli piglia male con la cabala, i numeri, non so perché. Non è mai stato così, ma pane, burro e rock and roll ha un po' cambiato le nostre vite, anche quella di Fricantoni. Una trasmissione radiofonica con i conduttori che può capitare vengano presi da quello che succede al di fuori delle finestre. Cosa veramente poco professionale, ma questo d'altra parte è un programma. È successa una cosa strana, ragazzi. Cioè si è spento un lampione di là e non questo qui. E questo qui davanti si chiama lampione di pane, burro e rock and roll. Quello di là non lo so, perché è da un'altra parte. Però se avete ragione voi sostenendo che funzionano crepuscolari, quindi che quando arriva la luce si spengono, si doveva spegnere anche questo. Ed è subito giallo. Chiameremo Iris per qualche rilevamento, per capire meglio che cosa sta succedendo. Tranquilli comunque, non parliamo per due ore di seguito, questa è la vostra fortuna. Abbiamo un sacco e una sporta di buona musica per svegliarvi al meglio anche quest'oggi. Si inizia con The Boss, Bruce Springsteen. Si balla nel buio. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sitting there, sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Barba, beh, direi preciso come il caccio sui maccheroni questo Bruce Springsteen targato Dancing in the Dark, bello preciso insomma per l'atmosfera che viviamo a quest'ora del mattino. Se ci state ascoltando nella diretta di martedì, buona giornata a tutti. Beh, mentre fuori luogo per chi ci sta ascoltando magari su internet, nelle puntate in archivio, un ciao comunque anche a te, caro amico o cara amica appassionato di internet, come dicono in televisione, che ci tieni alla tua privacy. Stamattina ho sentito un giornale radio dove parlavano di privacy. Dai, su, no, non si fa. Anche noi sbagliamo gli accenti, ma privacy mi sembra veramente un po' troppo. Avremo da lamentarci, ma sì, nelle due ore di pane, burro, rock and roll capita spesso e volentieri di volersi lamentare, ed è giusto farlo insieme, anche tu, là fuori. C'hai già la carognetta così all'inizio giornata? Hai qualcosa da lamentarti? Fallo, tranquillo. C'è qualcuno che ti ascolta sempre. Qualche cattivo consiglio lo troverai. Basta che ci... che ti fai sentire al 3... se lo vuoi, al nostro numero di SMS, 335... 100 77 77, questo è il numero di SMS, oppure ariel@radiorockfm.com. Devo segnarmi, Spadino, che quest'oggi devo assolutamente discutere con i fedeli gruppi all'ascolto di un paio di cosucce riguardanti la democraticità di questa trasmissione radiofonica, che è stata messa in dubbio. E ne approfitterei per parlare di democraticità di questo spazio radiofonico anche riguardo all'appuntamento già annunciato dell'8. Per chi non avesse mai ascoltato questo programma o per chi si fosse perso la delirante settimana passata di diretta, la scorsa settimana abbiamo sdoganato il gioco dell'8. Abbiamo un amico di una tabaccheria qui a Milano che ci aiuta a comporre le terzine e le giochiamo. In realtà lo abbiamo sdoganato solo garantendo che i numeri che stiamo dando sono sbagliati. Quindi ricordami che devo tirare le orecchie al tabaccaio, dopo ti spiego perché. Adesso però non posso dir niente. Proseguo con la musica che è meglio. E si prosegue alla grande, anzi alla grandissima. Sì, sì, proprio con loro. Ah, sì, sì, sì, sì. Con gli Yes, sì, sì, Yes. Eh? And you and I. Eccolo lì, Freak. Fa l'almanacco? Che puntata è oggi? No, non te lo dico che puntata è oggi. Ah, no, no, mascherina, ti conosco. È la puntata 95 da quando abbiamo iniziato, mettiamola così. Sight of seeds of life with you. Oh, che gioia, oh, che sollazzo, come eccolo direbbe qua il DJ Ariele. Eccolo qua. Iniziare la giornata con questo sprazzo di buongiorno, sprint. Buongiorno Roberto Fricantoni, si ricordi una cosa, meno 6, le dico solo questo. Meno 6, qual è il codice che sta sotto a meno 6? Me lo spieghi? Non glielo voglio svelare, preferirei passare all'almanacco del giorno, ma meno 6 se lo ricordi. Meno 6 vuol dire che mancano 6 giorni. Alla presentazione della patente da vero rocker? Ah! Forse, chi lo sa, non dica così. Facciamo un almanacco, facciamo l'almanacco del giorno. Altrimenti devo correre a gettarmi una brocca d'acqua in testa dall'emozione. La vedo rovente. Allora passiamo senz'altro alle notizie dell'almanacco. 25 settembre. Dice quest'oggi. Dice bene. Nel 1690. Sì. Accidenti, sempre più aritroso, sempre fatto anche più storico. Va bene. Allora, public occurrences, both foreign and domestic. Cos'era? Il primo giornale pubblicato nelle Americhe, sì, uscì per la prima ed ultima volta perché venne considerato offensivo e al suo editore, il coraggioso Benjamin Harris, sì, venne ordinato di non farlo più uscire, di non stamparlo più. Per la serie il 25 settembre sono successe poche cose, raschiamo il raschiabile, però mi piaceva questa cosa della censura e ma che fosse uscito ancora una volta sola. Proseguiamo. Infatti, ma senta ancora, nel 1956, sì, 2 anni dopo la nascita di Fricantoni, certo, viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico tra Scozia e Terranova. Che ci si poteva fare con questo cavo sottomarino? Beh, comunicare, sicuramente. Ma comunicare. Ma tipo con i bicchieri, un bicchiere da un lato, un bicchiere dall'altro. Pronto, mi sentite a Terranova? Esatto. Sì, lo sentiamo dalla Scozia, posso? Posso dalla Scozia. Cosa ci facciamo con questo cavo sottomarino? Non lo so, per intanto parliamo. Una roba di questo tipo? Sì, penso più o meno fosse così, in sintesi. Ma senta qui, passiamo con un salto temporale clamoroso. Mi stupisca! Nel 2005 Fernando Alonso diventa il più giovane pilota di Formula 1 a vincere un campionato di Formula 1. 24 anni e un mese, pensi. Beh, vinse a 24 anni, vincere un campionato del mondo di Formula 1 non è cosa da tutti i giorni. Ho la pelle d'oca al solo pensiero. Lei ha mai vinto no a 24 anni un campionato del mondo? No, massimo qualche garetta di nuoto quando ero più piccolo, ma adesso non gareggio più. Peccato, però. Peccato, però. Ero una promessa. Sì, si vede. Beh, effettivamente la vedo un po' sformato. O meglio, la battuta è la seguente. La vedo difforme. Surreale. Chiusura surreale, mi piace molto. Musica. La vedo difforme, l'ha lasciato basito. L'ho visto benissimo! Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda. Non so, già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. È leggero il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si perda. Okay. sta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. Ancora pochi giorni che avremo a disposizione per gustarci insieme questa meravigliosa canzone della premiata Forneria Marconi, che intitolandosi Impressioni di settembre, da lunedì non potremo più ascoltare perché sarà ottobre. Caspita, che battuta provincialotta, come è giusto che sia. Per uno speaker provincialotto, benvenuti a Pane, Burro e Rock and Roll, una follia radiofonica che tenta di tenervi compagnia due ore, dalle 7 alle 9 del mattino, ogni giorno sempre di più alle nostre coordinate, ogni giorno sempre di più anche il popolo degli ascoltatori e delle ascoltatrici passive, che abbraccio con una forte stretta. Voglio bene anche a voi, ma sì, anche se vi vergognate di scriverci o non riuscite mai a ricordare il numero di SMS. Però andiamo, iniziamo l'interattività di quest'oggi strombazzando una nostra gentile amica. Non ci tiriamo mai indietro nel tentare di... Allora, Monica, studentessa, quest'oggi è l'esame di diritto privato, pensateci voi. Monica è andata... L'ho fatto talmente tante volte io l'esame di diritto privato che ho abbonato anche per tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Un saluto anche a Siux, mi sono svegliato convinto che stava piovendo, quando però mi sono accorto che non era così, facendo parte del gruppo d'ascolto dei Carpentieri, mi ha fatto un po' incarognire. Speriamo di fartela passare il prima possibile. Ancora discussioni sui lampioni crepuscolari che continuano ad attirare la vostra attenzione più ancora della mia, se mai fosse possibile. I crepuscolari si accendono e si spengono dietro regolazione dei lux. Ciao Massimo, e un saluto anche a Firenze. I lux, io credo di avere un lux da qualche parte, credo qui sul naso, ho una roba qui sul naso da un paio di giorni. Ciao Granchio, così mi chiama Puggio da Milano. Da quando avete ripreso la diretta hai una verve diversa rispetto a prima della pausa estiva. Posso farmi anch'io di quello che prendi tu? Sai, per non rischiare di sfondare lo schermo del PC a testate involontarie provocate dal sonno. Finalmente domenica vedrò il Baffo Live. Bravo, bravo, caro amico. Ti stai preparando, mi raccomando, per i test attitudinali di domenica sera. Di cosa ci facciamo? Non te lo posso dire di cosa ci facciamo qui a Pane, Burro, Rock and Roll. Anche se, ormai lo sanno tutti, un paio di litri di chinotto, così appena svegli, un po' aiuta sempre. dolci, dolci come lo zucchero, proseguiamo. A tutti gli amici che hanno la fortuna di svegliarsi in questo istante con accanto la loro donna. Stand by my woman. Alla loro, non alla mia, però. Un impegno intenso, ma poi per essere tenero e delicato anche con te stesso, perché ti vuoi bene. E beh, che c'è?